e se l'efficacia probabilmente ci sarà, perché probabilmente è un provvedimento ministeriale, forse addirittura un decreto, poi ne nascerà la questione di chi paga l'uso di questi impianti, che rimangono di proprietà di un privato, e se tu li usi anche diciamo sottratti al privato, poi dovrai pagarne un equo indennizzo. Ma queste sono questioni parziali. L'emergenza discariche, che a detta del sindaco Marino rischierebbe di portare alla paralisi della raccolta dei rifiuti dal 22 maggio, potrebbe essere risolta con un decreto ad hoc, una semplice modifica al codice dell'ambiente, chiamiamola semplicemente modifica. E questa è la via ad uscire dal rebus ciclo dei rifiuti della capitale, che il Ministero dell'Ambiente ha individuato per consentire l'ormai improcrastinabile requisizione dei due impianti di trattamento meccanico e biologico di Valle Galeria, vicino alla grande discarica ora chiusa di Malagrotta. Tutto questo è più o meno quello che abbiamo di fronte. Noi sempre su questa questione raccoglievamo anche un'altra piccola questione, adesso non vi staremo a leggere tutte le considerazioni intorno a questo, ve la diamo solo come notizia. Il signor Manlio Cerroni ha ottenuto un anno di reclusione e 8 mesi per il suo storico collaboratore Francesco Rando. Queste sono le pene inflitte dal giudice monocratico al termine di un processo che li vedeva imputati per presunte, a questo punto accertate almeno in primo grado, irregolarità legate al gassificatore della discarica di Malagrotta. È stata accolta in gran parte la richiesta del pubblico ministero Alberto Galanti, che aveva chiesto di condannare i due imputati a un anno di reclusione ciascuno. Questa è la notizia. Con questa ultima notizia chiudiamo la pagina che riguarda Roma. Ci avviamo anche alla chiusura di questo giornale radio, se non ci mancasse ancora di darvi conto di quel paio di notizie degli esteri che abbiamo selezionato fra le mille, naturalmente, che riguardano il mondo. Parliamo in particolar modo di questa vicenda dell'epico fallimento della polizia di New York sull'uso dei social network. Dicevamo, ieri il New York, il Dipartimento di Polizia di New York, attraverso il proprio account Twitter, ha lanciato quella che in gergo viene chiamata una chiamata all'azione, un call to action, l'invito a fare qualcosa collegato a un marchio, una causa, un ideale. Chi gestisce, immagino, i social media per conto del Dipartimento di Polizia newyorkese ha chiesto ai propri follower, cioè alle persone che lo seguono, 97.000 al momento, della redazione appunto in questo momento, di twittare foto fatte in compagnia degli agenti di polizia accompagnati dall'hashtag la mia polizia di New York. Quella che doveva essere un'operazione di simpatia, di coinvolgimento delle persone, di immediata si è immediatamente rivoltata contro, trasformandosi in un autogol, un terribile boomerang. L'hashtag, appunto, il richiamo la mia polizia di New York, è schizzato subito fra i trend topic, cioè fra i più cliccati o comunque i più visti, i temi caldi del momento, ha avuto l'effetto opposto a quello desiderato ed ipotizzato. Infatti le foto postate sulla piattaforma di microblogging da 140 caratteri nella stragrande maggioranza dei casi non erano assolutamente favorevoli alla polizia, anzi erano per lo più casi di violenza e abusi da parte delle forze dell'ordine. Insomma, è un bel autogol. L'ondata di protesta non sembra placarsi. L'account ufficiale della polizia di New York ha pubblicato solo 4 fotografie, alcune delle pochissime in suo favore, ignorando tutti gli altri tweet negativi, commettendo forse l'errore più grande di tutta questa vicenda. Ci dicono che appunto è un caso di studio di come la comunicazione virale e sociale può essere a volte ritorta al di là delle intenzioni di chi la lancia. Dalla Palestina l'ennesima notizia che viene da Gerusalemme: se in qualche maniera la situazione non cambia per quanto riguarda il negoziato con Israele, e non cambia lo stato d'avanzamento delle colonie del modello coloniale in Cisgiordanio, l'ANP sta provando a riaprire la partita sulle questioni interne. Questa mattina membri del movimento islamista e del governo di fatto della Striscia di Gaza e membri di Al-Fatah, in questo caso appunto Al-Fatah, che è il partito del premier, appunto il partito della fazione dell'OLP, che appunto rappresenta la maggiore fazione dell'OLP, che rappresenta il governo dell'autorità nazionale palestinese, in questo momento avrebbero stretto un accordo dopo lunghi colloqui a Gaza City. Ci sono stati anche progressi sull'organizzazione delle future elezioni e sulla composizione dell'OLP vero e proprio, ha detto un funzionario palestinese rimanendo anonimo. Ieri lo stesso premier di Gaza, Anaye, perché appunto Gaza, dopo lo scontro, la sorta di guerra civile fra le due parti, ha un governo autonomo, ha un suo premier, frutto della divisione in due dell'autorità nazionale palestinese, dei territori dell'autorità nazionale palestinese, si spera di giungere in fretta a un accordo di riconciliazione così da formare un solo governo, un solo sistema politico e un solo programma nazionale. Come gesto di buona volontà, per capire un po' come sono le situazioni, Hamas ha liberato 10 prigionieri membri di Fatah. Il negoziato prosegue oggi a porte chiuse, ma il clima, dicono dai ranghi di Hamas, è più che positivo. Resta da vedere se questa volta le parole seguiranno i fatti. Certo, è la prima volta che due fazioni politiche annunciano di aver trovato un accordo per la creazione di un governo a interim. Insomma, questa è un po' la situazione. Forse qualcuno dice che è anche frutto del forte indebolimento di Hamas, perché la ci stanno distraendo, ma ci stiamo distraendo, ma il forte indebolimento da Hamas dopo il cambio di governo in Egitto, la chiusura dei tunnel e il vicolo cieco sostanzialmente in cui si trova la popolazione di Gaza, ma lo stesso governo di Hamas. Chiudiamo finalmente questo giornale radio con l'ultima notizia che ci viene dall'Ucraina. I reparti speciali di Kiev hanno strappato la cittadina di Sviatogorsk alle forze filorusse, un importante punto strategico, fa sapere il ministro dell'interno ucraino, perché è al confine tra le regioni russofone di Donetsk, Lugansk e Kharkiv. Questa è la notizia. Ma le reazioni sono pesanti, perché pur non essendoci state vittime, queste sono le fonti del Ministero dell'Interno, questa è una cittadina a 5.000 abitanti, appunto diciamo un importante punto strategico, però le reazioni russe sono pesanti. La Russia si dice pronta a rispondere come ha già fatto in Georgia nel 2008 se i suoi interessi saranno attaccati, lo ha appunto dichiarato il ministro degli esteri Sergei Lavrov, anche a fronte appunto di questa tregua traballante che non sembra trovare esito, mosse e contromosse sullo scacchiere. Intanto l'Europa pare tenti una l'ennesima mediazione che probabilmente non andrà molto lontano. È veramente tutto, vi ringraziamo soprattutto come al solito per la pazienza. Qui dagli 87.9 sono le 20.08, finisce il giornale radio, vi lasciamo a qualche spot e poi subito dopo la trasmissione che segue. Cementificazione, repressione, carcere, fascismo, sessismo, sfratti, disoccupazione. Così come 70 anni fa la lotta partigiana liberò i quartieri proletari dall'occupazione nazista e la dittatura fascista, oggi le lotte continuano per la riappropriazione di spazi, aria, libertà, cultura, dignità. Il 25 aprile i quartieri di Roma Est chiamano tutte e tutti ad una giornata di festa, lotta e liberazione, con un corteo che attraversi le strade di Centocelle, Gordiani e Prenestino, per seminare e diffondere i conflitti, segnalare da basso gli attacchi alle nostre vite e infine liberare l'area del lago dell'ex SNIA per renderla un parco subito. Vi aspettiamo venerdì 25 aprile dalle ore 9.30 a Piazza delle Camelie per un corteo territoriale che da Centocelle arriverà al lago dell'ex SNIA. E dopo lo spot per il 25 aprile nella zona est di Roma, al Pigneto in particolar modo, noi approfittiamo di qualche secondo ancora e di una corrispondenza per raccontarvi di un altro 25 aprile a Ostia. Sei in onda? Sì, ciao, però sentivo proprio adesso lo spot di Roma Est. Qui siamo sul litorale romano, a Ostia, quindi la parte sud-ovest, e anche noi ci siamo mossi per organizzare un 25 aprile diverso, che sia di lotta, che sia popolare, che sia sociale e soprattutto svincolato dalle retoriche che insomma ci propongono, ma ormai nemmeno più tanto, le varie sedi istituzionali. Un 25 aprile a Ostia che comincerà dal pomeriggio nel parco di Piazza Gasparri, dove c'è la sede della Scuola Popolare Andala, uno spazio autogestito occupato ormai da diversi anni, e comincerà alle 14 con un picnic autogestito, insomma salsicce, vino a volontà a prezzi popolari, e poi si continuerà tutto il pomeriggio. Alle 6 per esempio ci saranno stornelli popolari di rivolta, letture delle lettere dei partigiani e delle partigiane condannate a morte, ma anche letture sulle nuove lotte di liberazione e di resistenza. Una giornata in cui organizzata da praticamente la maggior parte delle realtà autogestite, auto-organizzate del litorale romano, quindi dalla Palestra Popolare Lidense, che ha sede proprio nei pressi di Piazza Gasparri, alla Scuola Popolare Andala, che ho già citato, ma anche allo Sportello di Lotta per la Casa, che è nato qualche mese fa. Va benissimo, no, sì, non ti vogliamo troncare, però sicuramente avrai altre occasioni per continuare a raccontarci il 25 aprile sul litorale romano. È semplicemente che la trasmissione che segue sta facendo un po' di pressione rispetto a questa, abbiamo un po' sforato i tempi, no, ma noi ti ringraziamo per l'informazione e speriamo poi di poter riascoltare l'informazione, di avere tempo anche di sentirlo nei prossimi giorni, in maniera tale di essere anche più informati sul programma. Certo, se non hai nulla da aggiungere, va bene, l'appuntamento comunque è? L'appuntamento è a Piazza Gasparri a Ostia, a due passi dal porto turistico di Ostia, proprio nel parco, a due passi dalla sede dello Spazio Popolare Andala, in Piazza Gasparri, Ostia Nuova, dalle 14 in poi. Ciao e grazie. Grazie a tutti e a tutte, ciao. Questo era appunto un ultimo comunicato al volo sul 25 aprile. Noi passiamo a uno spottino e poi alla prossima trasmissione. 87.9 sur la bande FM, un numéro pour nous joindre, le 06 49 17 50. Et pour souscrire à Radio Onda Rossa, le numéro de compte courant est le suivant, le 61 80 40 01, à l'adresse de Radio Onda Rossa, 56 rue de Volchy. Bisogna che ci sia una estrema attenzione verso chi non solo provoca, conduce atti violenti, ma anche chi in qualche modo volesse giustificarli. Farsi capire molto bene, perché questo paese ne ha già passate tante, e queste aggredire dei poliziotti che stanno difendendo un legittimo cantiere. Il 22 maggio a Torino si aprirà il processo a carico di Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò, accusati di terrorismo per il sabotaggio di un compressore. Attraverso l'accusa di terrorismo contro alcuni no-tav si vogliono colpire tutte le lotte. Sabato 10 maggio, ore 14, manifestazione popolare a Torino. Chi attacca alcuni di noi attacca tutte e tutti. Per prenotare i pullman per il corteo, chiamare il numero 351 09 30 641.

the other side. With my hands I could be here. There must have paid her a nice price. She's putting on a stone to be loved. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. Ciao a tutte, ciao a tutti. Scusate il ritardo. Questa trasmissione è dedicata al 25 aprile, è dedicata al femminismo antifascista, è dedicata alle partigiane e ai partigiani di oggi. Apriamo la trasmissione con una citazione che ci è sembrata molto adatta, di Audre Lorde, dal The Black Unicorn del 1978. Dice: perciò è meglio parlare ricordando che non era previsto che noi sopravvivessimo. Nessuna memoria ha valore se non viene riportata all'attualità, se non può essere utile nelle lotte del presente, se non ci serve per capire quello che stiamo passando e quello che stiamo attraversando. Diventa una memoria sterile e oleografica. E allora che cos'è importante oggi? È importante riconoscere le partigiane e i partigiani di oggi. Per fare questo ci siamo servite di un confronto. Abbiamo preso un libro di Roberta Cairoli che si intitola Nessuno mi ha fermata, antifascismo e resistenza nell'esperienza delle donne del Comasco 1922-1945. È un libro tutto di testimonianze al femminile di vario tipo, dalla carcerazione alla militanza nei GAP, alla militanza in montagna, alle staffette, quindi tutti i modi che hanno attraversato la militanza prima, dopo, prima del fascismo, durante il fascismo, durante la resistenza. E abbiamo preso dei pezzi, dei piccoli pezzi significativi, perché volevamo confrontarli con oggi. Per esempio, sono sempre storie di donne, no? Per esempio, sempre da questo libro, le storie di due donne, un pezzettino della storia di due donne. Non essendo emerso nulla di compromettente e non potendo incriminarla, Anita viene destinata ugualmente al confino di polizia a Lipari. La stessa sorte tocca ad Amelia. Espatriata dalla Francia con un passaporto falso, viene fermata a Bardonecchia dalla polizia ferroviaria, che le ritira i documenti, costringendola a trascorrere il resto della giornata e della notte in guardina in stato di fermo. Il mattino seguente viene accompagnata da un carabiniere al carcere di Susa, motivandone il trasferimento per ragioni di sicurezza dovute all'arrivo del principe ereditario. Dopo 4 o 5 giorni viene portata nel settore femminile, nel quale le recluse si trovano in condizioni particolarmente disagiate. Non si usufruiva neppure dell'ora di aria giornaliera, perché essendo un carcere dove i condannati scontavano una pena definitiva, magari di diversi anni, gli uomini, vedendo le donne che passavano per l'ora d'aria, diventavano matti. Alla messa, prima facevano uscire le donne e le mandavano dietro l'altare, poi gli uomini, e ciò per ordine del ministero. Inviata a Como, trova alla stazione una carrozza con due carabinieri che la conducono nel carcere di San Donnino, in una cella di punizione. L'attesa è snervante. Intanto passavano i giorni, le settimane, e nessuno si faceva vivo con addebiti precisi. Finalmente un giorno fu celebrato il processo. Questo ci fa venire in mente un collegamento con l'attualità. Per esempio, se noi pensiamo a quello che hanno fatto alle compagne e ai compagni denunciati, arrestati, arrestate, finiti in carcere, no? Quando non c'è un addebito preciso, li fanno passare da una caserma all'altra, li lasciano rinchiusi in carcere in attesa di processo, e in questa attesa snervante che sembra non avere mai fine. E poi se rileggiamo le ultime righe di quello che ha letto un attimino fa Claudia, che cosa dice la motivazione? La motivazione dice: l'imputazione è antifascismo, propaganda sovversiva tendente al rovesciamento dello Stato. E adesso che cos'è? Propaganda sovversiva tendente al rovesciamento dello Stato. Per esempio, da un articolo che abbiamo trovato su InfoOut, dice: continua la costruzione del nemico pubblico Notav, no? Perché praticamente c'è un accanimento e una pesantezza di attenzione nei confronti di chi, per esempio, adesso porta avanti la lotta Notav, ed è per questo che Chiara è in carcere qui alla Bibbia, che troviamo molte affinità con quello che succedeva in quegli anni, no? Per esempio, dice InfoOut: ci troviamo a commentare l'ennesima notizia utile alla costruzione del nemico pubblico Notav, dove riuscire a costruire una percezione di pericolosità elevata fa buon gioco alla magistratura. Più volte abbiamo reso pubbliche le condizioni in cui avvengono i processi, sia al Palazzo di Giustizia, sia all'interno dell'aula bunker del carcere Lorusso e Cotugno. Edifici presidiati all'interno e all'esterno, processi blindati all'interno di un carcere come solo negli anni 80 avveniva. I Notav sono pericolosi, sono terroristi, sono un qualcosa che deve ricordare le paure dell'opinione pubblica. Giochi sporchi sulla pelle di Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò, che si trovano in carcere in sezione di isolamento con un capo di imputazione palesemente dopato. Del resto, recentemente l'accusa di terrorismo è stata utilizzata in due casi, contro i Notav e contro i secessionisti veneti. E continua l'articolo di InfoOut, però la cosa che salta palesemente agli occhi è l'accanimento e la pretestuosità con cui allora e ora vengono perseguitati quelli che vengono ritenuti pericolosi. E volevamo continuare a leggervi degli stralci del libro di Roberta Cairoli, Nessuno mi ha fermata, e un pezzo che parla delle carceri fasciste e narra di questa donna, di questa compagna Anita. L'esistenza delle detenute, costrette così a misurarsi con mille problemi e bisogni della vita quotidiana in carcere, viene investita e ristrutturata in modo totalizzante dall'ossessivo e maniacale rituale delle pratiche disciplinari. Queste vanno ben oltre gli usi ordinari del sistema carcerario. Nelle carceri femminili ci sono le suore come sorveglianti, non uno staff stipendiato con una vita esterna, e la loro presenza rende più capillare la sorveglianza. Con un misto di frustrazione e fanatismo ispirate dal loro esplicito intanto missionario, sono solite servirsi di sottili ricatti per indurre le detenute ad un atteggiamento servile e rassegnato. Spesso non consegnano loro la posta, compresi i pacchi viveri, finché il cibo non ci marcisce dentro e i vaglia. Francesca, per esempio, scrive ai suoceri e al cognato: l'ultimo vaglia emesso a Parigi in data dell'11 maggio, oggi 12 luglio 1937, non è stato ancora accreditato. Quando poi devono scrivere lettere, le compagne vengono riunite in una cella e c'era la suora a sorvegliare. Quando si impiegava un po' troppo tempo, fate in fretta. Le suore lavorano sui sentimenti, pensieri e debolezze proprie alla condizione femminile, affinché il carcere sia perennemente presente, oltre che nella vita materiale, anche nella vita interiore di ogni detenuta, come senso della colpa commessa che non deve mai essere dimenticata, come prezzo da pagare non solo per la trasgressione alla legge dello Stato, ma anche per la deviazione dal ruolo femminile, per essere donne anormali. Non è facile resistere all'impersonale efficienza di queste norme, i processi di riduzione del sé, le crisi e i vuoti di identità provocati dal regime carcerario restringono la possibilità di autodifesa, determinando una progressiva assuefazione dei detenuti. Il senso di estraniazione, di immobilità, di solitudine affiora con evidenza dalle parole di un'Anita che appare estremamente fragile. Ho l'impressione, scrive Anita, di vivere in un mondo sconosciuto, mai immaginato, lontana da tutte le persone e cose care, e mi pare che questo duri da tempo immemorabile, di modo che quelli che ho conosciuti più intimamente e perciò più amati si sono resi a me alquanto estranei. Nella presente mia situazione ho bisogno di tutti e di tutto, quasi anche di un bicchiere d'acqua, e perciò ogni pagliuzza che mi venga da mano amica mi è sommamente gradita. E adesso leggiamo un pezzettino di una bella lettera di Chiara che ha mandato dal carcere delle Vallette prima di essere trasferita qui al carcere di Rebibbia femminile, no? Leggiamo circa metà. Se si scende in strada al giorno sbagliato o giusto, insieme ai San Pietrini si può raccogliere il macigno della devastazione e saccheggio. Se si assume una pratica radicale contro il sistema sociale, è pronta la scura dell'associazione sovversiva o, con un salto in più di fantasia, dell'associazione a delinquere. Per tutto il resto si prepara la gabbia del terrorismo. Qualunque opposizione reale procura danni e rallenta l'avanzata dei progetti. Alla fine ogni azione e lotta efficace potrebbero essere imbrigliate in questa categoria di repressione. Lo scopo è facile da individuare: una punizione esemplare per qualcuno, un monito lanciato a tutti gli altri. Certo, l'idea di tutti gli anni di carcere evocati da tutte quelle parole stringe lo stomaco in una morsa. Ma è molto più doloroso però immaginarsi inermi e guardare il mondo devastato per il vantaggio di pochi. Da tutti noi che abbiamo imparato la differenza fra giusto e legale e assaporato il gusto di riprenderci le strade e i boschi con la minaccia della galera, non otterranno un granché. E neanche ci inganneranno col valore simbolico delle loro accuse, perché sappiamo da dove nasce il terrore e ne conosciamo i manganelli, i gas, le reti e gli eserciti, le armi, le sbarre. Non dobbiamo avere paura, lasciamola respirare a quelli che vivono blindati in un'esistenza spesa a difesa dei propri privilegi e delle proprie mire di saccheggio. Io in questa gabbia ho i polmoni pieni della libertà che ho imparato ad amare lottando tra i sentieri e per le vie. E ci sembra di sentire le parole di chi era imprigionata in quegli anni nelle carceri fasciste. I've got all my love. E tanto per non farci mancare niente, ma per ricordare sempre che la memoria va riportata al presente e la memoria deve essere importante per comprendere il presente, per capire quello che ci sta succedendo adesso, nel 1941 i nazisti costruirono in Germania il campo di internamento di Uckermark, campo per sole donne e giovani ragazze. Si chiamava campo di protezione giovanile. Le prime 70 ragazze furono imprigionate nel 1942, inviate per la maggior parte dai servizi pubblici sociali e etichettate come asozialen, con uno stigma non definito che si riferiva a qualsiasi comportamento contraddicesse le regole. Anche durante il fascismo in Italia, alla fine degli anni 30, furono introdotti campi di internamento, da non confondere con quelli di concentramento, dove venivano rinchiuse persone non per aver commesso un reato, ma ritenute pericolose socialmente, antifascisti, rom o omosessuali, a cui si sono aggiunti, dopo le leggi razziali, gli ebrei. Per gli idolatri della legalità, le leggi razziali erano una legge dello Stato e perciò andavano rispettate. A questo proposito, quindi, ricordiamoci sempre che cos'è la legalità, che non è altro che la rappresentazione formale di un rapporto di forza, e ricordiamoci sempre che in questa società, qui, in questo momento, qui e ora, noi abbiamo i CIE, che sono dei campi di internamento in cui sono rinchiuse persone non per un reato, non per qualcosa che hanno fatto, ma per una condizione. Cercheremo di collegarci adesso con una compagna del collettivo femminista Medea, che il collettivo femminista Medea ha una trasmissione, Il colpo della strega, su Radio Blackout. Radio Blackout mi sembra che siano 105,25 sulla modulazione di frequenza, poi ce la diranno loro. E che è a Torino, sì. Non mi stavano dicendo qui, suggerendo, è a Torino, certo, è a Torino. Allora, perché la trasmissione loro ce l'hanno di lunedì, e questo lunedì hanno fatto una puntata in cui hanno raccontato le condizioni della donna durante il periodo fascista. Leggo proprio dal loro, dalla loro presentazione sul palinsesto, in particolare facendo riferimento alle leggi sul lavoro, sul codice familiare e alla forte saldatura con la Chiesa cattolica. Collocare la storia delle donne in Italia durante il ventennio fascista di fatto equivale a tracciare la storia dell'Italia stessa, dal punto di vista culturale, sociale, economico, prima ancora che politico. È la storia del tentativo di costruire un ordine sociale caratterizzato da stabilità, disciplina e uniformità, dando vita a una società compatta, profondamente gerarchizzata, e che arginasse le spinte profondamente rivoluzionarie che si davano in quel momento storico. Una delle pietre angolari per la realizzazione di quest'ordine sociale, il modello cui uniformare un'intera comunità per quanto riguardava comportamenti, ruoli e relazioni, non poté che essere, oggi come allora, la famiglia, quale si era precisata a partire dal primo Novecento, la famiglia piccolo borghese in cui tutto ruotava intorno a due cardini, dell'esclusione delle donne e del potere indiscusso del capofamiglia maschile, la famiglia in cui vi era un padrone serio e severo, una madre tutta rivolta alle cure della casa e della famiglia, in cui le relazioni domestiche erano rigorosamente gerarchiche. Ovviamente non saremmo noi se non avessimo problemi con i collegamenti telefonici, quindi insomma stiamo aspettando che ci risponda la compagna e quindi vi mettiamo un po' di musica. In attesa che riusciamo a fare il collegamento, volevamo leggervi un'altra parte. Nostro comunicato. Chiara, partigiana di oggi. Ci sono state e stati donne e uomini che tanti anni fa hanno lottato contro il fascismo per la libertà della loro terra, delle loro case, dei loro pensieri, delle loro azioni, che hanno preso le armi per questo, che sono stati incarcerati e incarcerate, torturate e torturati, uccise e uccisi, e venivano chiamate e chiamati bandite e banditi. Oggi ci sono compagni e compagni, donne e uomini, denunciate e denunciati, perseguitate e perseguitati, incarcerate e incarcerati, perché si oppongono alla devastazione della loro terra, perché rivendicano il diritto di scegliere della propria vita, perché lottano contro lo sfruttamento e l'oppressione, perché ritengono giusto decidere del proprio destino, e per questo vengono chiamate e chiamati violente e violenti, terroriste e terroristi. Nessuna memoria ha senso se non viene riportata all'attualità, se non si riallaccia il filo con quello che succede qui e ora. Oggi, nella metropoli imperialista, il fascismo in camicia nera è relegato ai pestaggi e alle aggressioni, manovalanza da usare all'occorrenza. Ma gli eredi spirituali del fascismo prosperano e sono i neoliberisti, PD in testa, che hanno trascinato e stanno trascinando questo paese nella povertà diffusa, nella miseria del lavoro precario, della disoccupazione, delle guerre neocoloniali, dove essere senza casa e senza possibilità di sostentamento è la norma, dove le donne e le soggettività oppresse, con una pelosa e strumentale attenzione, vengono ricacciate nei ruoli e nella dipendenza, dove imperano i principi di gerarchia, meritocrazia, autorità, dove le leggi sono un feticcio da osservare a prescindere, come quelle razziali di tanti anni fa. Le manifestazioni oleografiche che saranno fatte per il 25 aprile, proprio da quelli che sono gli eredi e la causa di tutto questo, non sono solo opportunistiche. Mai come in questo momento il tradimento della resistenza è stato fisicamente evidente. Quando la più alta carica istituzionale e il Presidente del Consiglio porteranno corone e faranno finta di onorare lapidi, saranno gli stessi che riscrivono e annullano la Costituzione che dalla resistenza è nata, che propugnano le guerre neocoloniali, che disattendono la laicità dello Stato, annullano la legislazione sul lavoro, distruggono e smantellano le stesse cosiddette istituzioni democratiche. Pronto, ci senti? Vi sento. Allora, ciao, abbiamo presentato adesso la vostra trasmissione, anzi la ripresentiamo così rinfreschiamo un attimo dopo l'attesa di 5 minuti di musica, abbiamo letto anche un nostro comunicato, e il colpo della strega che fate a Torino su Radio Blackout, correggimi se sbaglio, se do i dati sbagliati, mi pare che sia 105-25? Esatto. Bene. E abbiamo sentito la vostra trasmissione di lunedì e ci è piaciuto molto perché da una parte analizza e storicizza praticamente la condizione della donna sotto il fascismo. Abbiamo sentito che avete analizzato le leggi che in quel momento comprimevano la donna entro determinati ruoli molto ben definiti. E ci siamo chieste, dato che oggi noi abbiamo impostato la trasmissione sul fatto che nessuna memoria ha senso e comunque ha importanza se non viene riportata all'attualità e se non ci serve a leggere il presente, pensavamo di chiedervi che cosa, secondo voi, in questo momento storico forse si sta riproponendo di quella di quella dualizzazione molto forte che c'è stata nel periodo fascista. Beh, sicuramente mi viene in mente la questione del lavoro e in particolare il lavoro di cura e la funzione riproduttiva, che insomma, come dicevamo già nella trasmissione, era ancora funzione riproduttiva e non ancora riconosciuta, insomma, come lavoro riproduttivo. Questi secondo me sono gli elementi, insomma, che facilmente creano collegamento rispetto al legiferare e anche al clima culturale e sociale dell'epoca. Nel senso, noi abbiamo cercato di analizzare un po' così le similitudini, le differenze, gli elementi di attualità, partendo dalla consapevolezza naturalmente che si tratta di due contesti socio-economici e politici, culturali completamente diversi. Siamo da una parte all'inizio del Novecento e ora ci troviamo nel 2014, insomma tante cose sono successe nel mentre, quindi se alcune forzature forse sono, sono possibili, allo stesso tempo però è bene appunto pensare alle differenze anche enormi rispetto anche al sistema di capitalismo avanzato che oggi viviamo rispetto a, ad allora, in cui proprio il fascismo, grazie insomma alla, alla modernizzazione tra virgolette che ha messo in campo, ha facilitato insomma il radicamento anche del, del, del sistema capitalistico nel nostro paese, che all'epoca era fortemente ancora rurale, contadino. Sicuramente insomma il fascismo ha dato una spinta verso una certa direzione. Certo. Rispetto poi al, così, al condizionamento della donna entro certi confini e dentro certi ruoli, sicuramente fondamentale è stata la saldatura con la Chiesa Cattolica. Leggevamo l'altro giorno in trasmissione proprio anche dei pezzi dell'enciclica di Pio XI rispetto appunto alle, a, al ruolo che le donne erano tenute ad avere e alla stigmatizzazione anche rispetto al lavoro fuori casa che operava la Chiesa Cattolica, che appunto definisce il fatto che le donne si, si occupassero di arti lucrative fuori dalle pareti domestiche come un pessimo disordine che si deve con ogni mezzo eliminare. E a queste insomma parole faceva eco lo stesso Mussolini, che sul Popolo d'Italia dell'agosto del 34 definiva appunto il lavoro femminile come preoccupante stimolo all'indipendenza, ostacolo alla maternità a causa della disoccupazione maschile. Lui leggo il virgolettato di Mussolini: il lavoro mascolinizza la donna, la rende sterile, la induce a considerare un intoppo la maternità, concorre alla corruzione dei costumi, inquina la vita della stirpe, insomma, e via dicendo. Ora sappiamo che sicuramente il lavoro non è il viatico per la nostra liberazione, però insomma per tante donne l'uscire di casa e rendersi autonome e indipendenti è stato anche un passo insomma importante per così sollevarsi da tutte quelle incombenze domestiche, soprattutto dal, dal ricatto della famiglia e del, del marito. Ci viene in mente, sai, ci viene in mente una cosa, cioè due particolari in effetti che abbiamo trattato qualche trasmissione fa. Uno, un input che viene dagli Stati Uniti e che viene propagandato qui in diversi modi, che è quello delle femministe casalinghe. E poi per esempio ultimamente c'è stato un articolo di Huffington in cui diceva che le donne adesso sono le prime ad aver capito che il lavoro è una cosa brutente e quindi sono quelle che per prime rinunceranno per salvarsi la vita al lavoro, rinunceranno alla carriera e per ritornare a, a gioire del, della famiglia e delle gioie familiari. Per cui ci sembra che queste due cose, seppure in un contesto molto diverso e una situazione storica molto diversa, però abbiano lo stesso obiettivo, diciamo così, no? No, sicuramente concorro, cioè oltre a questo, questo clima insomma creato dai media e così dalla, dalla categoria intellettuale tra virgolette, sicuramente concorrono anche tutte le leggi che negli ultimi anni sono state fatte rispetto al welfare, rispetto al lavoro. Sicuramente sono tutti passi che concorrono a rigettare le donne entro le mura domestiche, soprattutto a costringere le donne a farsi welfare quando appunto lo Stato sta dismettendo tutta una serie di servizi. Per esempio... mente dal libro bianco di No, perché mi veniva in mente anche l'uscita della ministra, l'ultima in ordine di tempo, in cui dice che farà di tutto per incentivare le politiche familiste e farà in modo che le donne facciano di nuovo figli, no? È dell'altro giorno questa uscita. Certo, sì, poi sono uscite che vanno in contraddizione poi con la realtà dei fatti, perché poi si taglia sui servizi, si taglia sugli asili nido, le condizioni di precarietà anche sul lavoro sono sempre più forti, quindi poi appunto da una parte si vuole una donna madre, una donna incubatrice, dall'altra parte sono sempre di più le difficoltà poi tra l'altro per chi vuole affrontare la maternità. Ma al di là di questo, appunto, il discorso sul welfare e il lavoro di cura secondo me è assolutamente centrale. Le poche insomma donne occidentali che sono riuscite ad affrancarsi dal lavoro domestico è perché nella maggior parte dei casi hanno la possibilità economica di delegarlo ad altre, no? Ad altre donne, sto parlando naturalmente certo. delle migranti che insomma per la maggior parte sono impiegate proprio in quel settore dell'assistenza familiare, tra l'altro costrette molto spesso a lasciare i propri figli e le proprie figlie nel paese d'origine, che verranno quindi cresciuti da altre donne a cui a loro volta si delegheranno, nonne, zie, eccetera, eccetera. E tra l'altro per esperienza diretta di chi tra noi lavora nella scuola, in particolare nelle insomma ex 150 ore CPT, cioè, eccetera, sì, sì. Molto spesso le ragazze giovani che hanno, ma anche di 14-15 anni, che hanno delle mamme che fanno le assistenti familiari, hanno quasi un destino segnato, perché quando le loro madri sono impossibilitate a recarsi sul lavoro sono loro stesse che già le vanno a sostituire. Per il resto insomma appunto chi non ha la possibilità economica di permettersi questo tipo di delega, molto spesso il destino è quello di rimanere a casa per accudire la casa, accudire il marito, accudire i figli, gli anziani, i disabili, insomma tutte quelle persone che evidentemente prive ormai di qualunque tipo di servizio, di assistenza da parte dello Stato, trovano ahimè nella donna l'unico soggetto non dico in grado, ma costretto insomma a prendersi cura di loro. Dal libro bianco di Sacconi in poi, che insomma non era tanto un corpus di leggi, ma era un impianto come dire culturale e politico su cui poi molte leggi successive si sono appoggiate, ma anche le ultime dichiarazioni di Renzi o il Job Act stesso, insomma il legiferare degli ultimi anni va tutto in quel senso lì, di una dismissione fortissima del welfare e quindi delle donne che poi sono costrette a ricoprire quei ruoli. Certo, poi mi è venuto in mente anche una cosa mentre parlavi delle donne migranti, che in questo modo, dato che l'emancipazionismo occidentale poi le usa, no, per il lavoro di cura al posto delle donne occidentali, noi chiamiamoci donne occidentali fra virgolette, noi cerchiamo di sottrarci ma siamo messe qua, poi di fatto le donne occidentali vengono coinvolte nei destini del capitalismo, perché praticamente sono coinvolte nello sfruttamento delle altre donne e per difendere la loro emancipazione, il loro diritto a lavorare fuori, poi sono partecipe dell'oppressione delle altre. No, certo, anche perché appunto non si è arrivati, sicuramente non si è arrivata ad una divisione, a un riequilibrio anche dei lavori di cura all'interno delle nostre case, quindi se il lavoro di cura è diminuito appunto non è perché a qualcun altro se ne è fatto carico, il nostro marito, il nostro compagno, insomma o il soggetto maschile con cui condividiamo la nostra esistenza, ma perché appunto costringiamo altre donne a farlo per noi, sfruttandole a nostra volta e molto spesso senza renderci nemmeno conto del livello di sfruttamento a cui sono costrette, perché il lavoro di assistenza familiare vuol dire che il tempo di vita non esiste più, perché è completamente assorbito dal tempo di lavoro. Certo. Sono donne che lavorano 24 ore su 24, che vivono con le persone di cui si prendono cura, con contratti allucinanti, con paghe da fame, eppure insomma appunto gli viene delegato quello che non si vuole, non si può fare insomma. E poi volevo chiedervi un'altra cosa, che era Sì, no, mi stavano facendo vedere bigliettini, dice non possiamo sforare troppo oltre le 9, ma non fa niente, volevo chiederti un'altra cosa, che è questa, che in effetti avete anche voi, di cui avete parlato anche voi, che in effetti con la resistenza poi c'è una rottura di questi schemi, no? C'è una rottura, cioè le donne in effetti nel momento della rottura di una normalità, questo mi viene in mente dall'incontro nazionale che abbiamo fatto 15 giorni fa, proprio sulla, da una rottura della normalità, poi prendono coscienza e si fanno carico di tutto un mondo che era loro negato, no? Assolutamente sì, sicuramente il momento di partecipazione alla resistenza è stato davvero una rottura fortissima, che ha permesso alle donne di sperimentare se stesse, di sperimentare un mondo, insomma, fino ad allora assolutamente sconosciuto, anche di quotidianità completamente differente, di uscita dalle case, di relazioni nuove, di possibilità anche di viversi le relazioni con l'altro in maniera completamente diversa, di avere posizioni di comando, di poter agire la violenza, no, in maniera